in primo piano. Condita in tutte le salse, proposta in tutti i modi, con tutti i commenti che volete, oggi non potete scampare dalla manovra. La manovra taglia per 24 miliardi, il Sole 24 Ore, via libera la manovra tra le tensioni per il Corriere. Manovra, scontro nel governo per Repubblica, statali e pensioni, ecco i tagli per la Stampa, tagli alle spese, stretta sulle pensioni per il Messaggero e poi il Giornale, taglia la spesa, non alla gente. Libero, evviva, via 10 province. Il Fatto, il governo Tremonti massacra la sanità. Avete notato, il governo Tremonti, non è casuale, poi ci arriviamo. Infatti il Riformista, la spunta Tremonti, addirittura per l'Unità il nuovo premier. E c'è la foto di Tremonti, lacrime e sangue. Allora, come detto, se ne occuperà Oscar Giannino anche oggi. Tra gli ospiti ci sarà anche Dino Pesole del Sole 24 Ore, che ne parla a pagina 3. Comunque, io vado ad alcuni commenti, alcuni aspetti più interessanti colti dai giornali. Detto che tutti hanno, spiegano, oggi alle 3 ci sarà la conferenza di Berlusconi e quindi sapremo qualcosa di più, ma tutti spiegano sui giornali cosa è previsto. Per esempio, le cose più interessanti e nuove, andiamo a vederle, le cose più interessanti e nuove. Spunta il taglio di 10 province, a pagina 10 del Sole. Questa è una novità, le province non di confine che contano meno di 220.000 abitanti scompariranno. Sono, tenetevi forte, Ascoli Piceno, Biella, Crotone, Fermo, Isernia, Massa Carrara, Matera, Rieti, Vercelli, Vibo Valentia. Cari abitanti di queste province, accontentatevi di avere il vostro comune, la vostra regione e il vostro Stato, che non è poco. Spunta il taglio di 10 province, regioni e enti locali stretta da 13 miliardi. L'altro elemento sul quale il Sole ha insistito da tempo e che fa discutere molto è quello delle case fantasma. Allora, sapete che c'è stata una grande ricerca dell'Agenzia del Territorio a scoprire milioni di immobili che non risultavano al catasto, milioni di unità abitative che non risultavano. Si è discusso che fare, che non fare, ci vuole il condono. Allora, il condono edilizio non c'è. Ma l'opposizione dice, attenzione, c'è un condono mascherato. Che cosa è passato? Spiega Saverio Fossati a pagina 7 del Sole. È passato questo. Non c'è un condono vero e proprio, ma entro il 31 dicembre 2010 i titolari dei diritti reali, vale a dire proprietari, usuari, usufruttuari, per citare le situazioni più comuni, dovranno decidere se dichiarare l'aggiornamento catastale per gli edifici e per gli interventi che abbiano comportato una modifica di consistenza o di destinazione d'uso e che non risultano in catasto, cioè dovrebbero dire, ecco qui, abbiamo questa unità immobiliare che non risulta in catasto ma esiste. Gli effetti di autodichiarare entro il 31 dicembre questa cosa sono? Che le imposte arretrate verranno pagate per intero. Quindi dovrete pagare le imposte, ovviamente, ma le sanzioni saranno ridotte di un terzo. Secondo le stime del Sole, se tutti si adeguassero entro fine 2010, dalle sanzioni catastali si attenderebbero tra i 120 e i 140 milioni. Chi invece, entro il 31 dicembre, dovesse dire io ho fatto l'ognorri fino adesso, continuo a fare l'ognorri, subirà l'accertamento dell'Agenzia del Territorio. C'è già scontro perché la maggioranza dice non è un condono edilizio, è una regolarizzazione edilizia. L'opposizione dice non è un condono mascherato questo qui e ovviamente c'è già battaglia su questo. Questo è un tema molto interessante. Poi sappiamo le finestre, le pensioni vengono ridotte, ci sarà un'unica pensione, taglio del 10% ai ministeri. Ma poi tutti i dettagli saranno in Oscar Giannino alle 9 e poi oggi nella conferenza, insomma è il tema del giorno, non troverete modo di scamparla dai dettagli della manovra. Quello che mi interessa ora sono i commenti alla questione politica. Allora, come detto, i malumori di Berlusconi. I malumori di Berlusconi sono perché l'ha spuntata Tremonti, lo possiamo ribadire, per il secondo giorno consecutivo e oggi lo dicono un po' tutti i giornali. C'è stata una riunione, una pre-riunione in Consiglio dei Ministri, scrive Marco Galluzzo a pagina 3 del Corriere della Sera. tesissima. Addirittura, secondo qualcuno, Berlusconi avrebbe detto: guarda, caro ministro Tremonti, che io posso fare a meno di te. E Tremonti sarebbe stato sul passo quasi di dire: e io mi dimetto. Insomma, lo scontro politico c'è, tanto che guardate come lo presenta Galluzzo. Ovviamente agli italiani oggi Berlusconi dirà che non ha messo le mani nelle tasche di nessuno, che nessuna aliquota è stata variata, che alcuni sacrifici sono passeggeri. E poi guardate cosa dice la faccia di Berlusconi in Consiglio dei Ministri. Diceva tutto della tensione e dello scontro che era avvenuto poco prima a porte chiuse con Tremonti. E la faccia diceva quello che Berlusconi non poteva dire sino in fondo, è che in privato un ministro, in modo impietoso a proposito della conferenza stampa prevista per oggi, riassume così: oggi Berlusconi farà il portavoce di Tremonti. Anche per Repubblica, questa non è la finanziaria che avrei voluto scrivere io, la resa del premier a Tremonti. Soprattutto, che cosa non è piaciuto assolutamente al premier? Il tema della tracciabilità del denaro, vale a dire è stato abbassato a 5.000 euro la soglia oltre la quale non si potrà pagare in contanti. Una mossa, dice Berlusconi, che neanche Visco, cioè Dracula, come era stato ribattezzato, no? Visco, il ministro del tesoro del governo Prodi. E infatti Andrea Garibaldi sul Corriere va a intervistare Visco. Poche battute. A pagina 2, io come Dracula, ora mi danno ragione. Vincenzo Visco sorride, sono abituato ad avere ragione a posteriori. Come Cassandra, beh, Cassandra faceva divinazione, io qualche conoscenza ce l'ho. Poco tempo fa ho scritto che ci sarebbe voluta una manovra correttiva da 9 miliardi di euro, quelli perduti cancellando le mie norme anti-evasione. Eccolo qui, la chiamavano Dracula. Le dispiace questo nomignolo, non me ne può importare di meno. Ora i fatti dimostrano che ero nel giusto. Hanno riscoperto la lotta all'evasione, si riparla di tracciabilità dei pagamenti sopra i 5.000 euro. Io l'avrei messa addirittura a 100 euro. Visco voleva questo, la tracciabilità, cioè l'impossibilità di pagare se non con assegno o carta, quindi più tracciabile, l'impossibilità di pagare in contanti sopra i 100 euro per poter seguire le tracce anche dei pagamenti a medici e avvocati. Quello che Berlusconi aveva detto in passato, uno stato di polizia fiscale? Ebbene, Visco conclude, dice: ritornerebbe volentieri a occuparsi di tasse, vivo molto meglio adesso. Tuttavia ho fatto quell'esperienza con grande piacere. Allora lo scontro politico è questo: o si fa così o mi dimetto. Questo avrebbe detto, secondo il riformista, appunto, Tremonti. E Silvio ingoia misure alla Visco. Dunque il riformista, vedete, mette tutto, cioè le possibili dimissioni, lo scontro Tremonti, e Silvio Berlusconi che dice ingoia le misure alla Visco. I commenti ne scelgo solo due. Intanto Stefano Folli in prima pagina del Sole 24 Ore dice: non è un mistero che questa drammatica manovra nasca più nel segno di Tremonti che di Berlusconi, più nel solco dell'austerità imposta all'intera Europa e non solo all'Italia dal disastro della Grecia, che nel ricordo della lunga stagione dell'ottimismo berlusconiano, stagione che all'improvviso appare archiviata col suo corollario di spensieratezza, di fiducia a buon mercato. All'improvviso il mondo appare cambiato. E dunque Tremonti e la Lega con lui sono stati abili ad anticipare i nuovi tempi. Il resto della maggioranza, con sofferenza imponendo alcuni compromessi, ha dovuto per ora adeguarsi. Più critico invece è Francesco Giavazzi in prima pagina del Corriere, perché Giavazzi dice sostanzialmente: tutto nasce dall'Europa che si è svegliata in ritardo per la Grecia, quando si è svegliata hanno provato a fare qualcosa, ora i mercati non paiono per ora aver sortito qualche beneficio e aver dato grande fiducia alle manovre. Un solo leader europeo pare aver compreso tutto. Nicolas Sarkozy è l'unico che ha avuto il coraggio di annunciare un innalzamento dell'età pensionabile. Tutto il resto, blocchi temporanei degli stipendi pubblici, spostamento di là di alcune finestre pensionistiche, incassi una tanto, un taglio alle dotazioni di alcuni enti, non convincerà i mercati, anzi rischia di essere controproducente, perché si ammette che un problema esiste senza affrontarlo fino in fondo. E infatti ieri la caduta delle borse. Insomma, Giavazzi dice: Questo bisognerebbe fare, l'innalzamento dell'età della pensione. Infatti, come sarà l'Europa tra 10 anni? Un continente che cresce, produce ricerca e innovazione, capace di giocare un ruolo leader nella politica internazionale, oppure un paese, un insieme di paesi vecchi, dove i pochi che lavorano devono sostenere un esercito di anziani e dai quali i migliori emigrano? È questa la risposta che i mercati cercheranno di capire leggendo le manovre di queste settimane. Per il Manifesto, Valentino Parlato la definisce una manovra chiaramente assolutamente di classe, perché i due dati rilevanti sono, secondo lui, il maxi condono edilizio, ecco, lo chiama così, neanche condono, maxi condono edilizio a tutti coloro che hanno costruito abusivamente senza pagare tasse, e dall'altra il taglio alle pensioni, agli stipendi degli statali, ai lavoratori in genere. Dice Valentino Parlato, il dibattito parlamentare sarà uno spettacolo da fiera. Critico anche Epifani, l'abbiamo sentito anche in qualche dichiarazione nel GR. Epifani, solo brutte sorprese, si taglia sui più deboli, ricetta vecchia, decideremo oggi se fare lo sciopero. Berlusconi, i poteri, il futuro, resto finché mi vogliono. Non è un annuncio dato in conferenza stampa, ma è l'ennesima anticipazione del libro di Bruno Vespa. Anche oggi, sapete, tutti i giorni le dirò, purtroppo mancano pochi giorni, esce venerdì, ma siccome dettano l'agenda politica del giorno, anche queste dichiarazioni distillate come una grappa di pregio ogni giorno, goccia dopo goccia, eccola qua l'anticipazione del giorno. Il libro è nel segno del Cavaliere, uscirà venerdì. Berlusconi, in questa anticipazione del libro, ha detto: finché gli italiani mi vorranno alla loro testa, al loro fianco, per combattere in nome della libertà e della democrazia, è mio dovere rispondere a così tanta fiducia. Poi ha detto: c'è una cosa che non capisco, l'avversione, l'odio, l'accusa di essere un dittatore che mi fa ridere. Vabbè, erano meglio le anticipazioni di ieri, no? Sul rapporto con Veronica parsimoniosa, il rapporto con la malattia, che ha detto... Ah, oggi c'è anche un'intervista al suo medico Zangrillo sull'anticipazione di ieri. Sul cancro il premier ha ragione, meglio più specialisti, perché ha detto: mi sono fatto operare, ma forse dovevo fare più consulti prima con altri medici. Vabbè, vediamo l'anticipazione di domani, magari ci riserverà qualcosa di interessante. Allora, intanto la vicenda delle intercettazioni continua. Noi ce ne siamo occupati un paio di giorni fa con il presidente della commissione Berselli, della commissione giustizia al Senato, che effettivamente si ricordava e diceva: io auspico che si torni al disegno di legge della Camera, ma in realtà ci sono delle modifiche fatte, insomma, un po'... era tentennante, no? Il dato politico è che è arrivato il ministro Alfano alla commissione giustizia e ha detto: cari signori, bello il lavoro che avete fatto, ma torniamo al testo della Camera perché ci sono troppe polemiche. La riassumo così: al Senato urla e insulti nella notte delle beffe, a pagina 9 della Stampa, 3 della notte, uno spettacolare resoconto di Fabio Martini di queste riunioni notturne convocate fino a notte, a oltranza, perché bisogna calendarizzare in fretta. 3 della notte, le luci di Palazzo Madama sono tutte spente, ma i licantropi del Senato, che nessuno vede, nessuno sente, 25 senatori rinchiusi nell'aula della Commissione Giustizia, sono lì a discutere. A un certo punto sbotta Luigi Ligotti dell'Italia dei Valori, 4 bypass, avvocato di processi che hanno fatto la storia. Voglio dire che il ministro è un cafone, irrispettoso con tutti noi e con voi della maggioranza, è in mala fede, perché Alfano è arrivato, ha detto: sconvocate pure la commissione, il vostro lavoro è finito, si ritorna al testo della Camera. Uno scroscio di emotività, momenti di goliardia spassosa. Per esempio il senatore Maritati, che aveva cercato di beffare 2 colleghi della maggioranza facendogli una foto mentre sonnecchiavano, a questo punto è dovuto incorrere nelle ire del PDL Balboni, che davanti ai cronisti ha detto: quel bastardo di Maritati ha detto che dormivo, ma io mi ero appoggiato su un braccio per un minuto, un bastardo. E poi insomma c'era chi era tutto riservato, ma Stefano Ceccanti ha messo tutto su Facebook in tempo reale. Soffre di insonnia, come ovviamente si ironizzava quando si faceva l'una, le due, le tre. E così, questo verso le due, Felice Casson chiede di chiudere al presidente Berselli: mi assumo la responsabilità della vostra salute. Casson dice anche della sua, Berselli si fruga nelle parti dell'incomodo. Vabbè, al Senato urla insulti nella notte delle beffe. Lavoro inutile, dice, ma che lavoro inutile, in un'intervista al Corriere Filippo Berselli, abbiamo migliorato il testo, da lunedì sarà alla Camera. O meglio sarà all'aula, al Senato. Che dire, c'è molto di Santoro ancora. Questa di Santoro è il dietrofronte di Santoro. Ha fatto un comunicato in cui ha detto: le continue fughe di notizie hanno violato l'impegno di riservatezza indispensabile per un possibile accordo con la RAI, favorendo interpretazioni fantasiose lesive della mia immagine. Insomma, sono denigrato, quindi forse non vado più via dalla RAI e resto qui. Questo è il significato. Dietro fronte di Santoro resto alla RAI. Il più spettacolare commento di questo è di Iena. Riccardo Barenghi, sulla Stampa, pagina 3. Tremonti pronto a correggere la manovra al ribasso. Sarà di 23 miliardi e 983 milioni se Santoro resta in RAI. Allora, per le segnalazioni conclusive trovate due cose voglio segnalare. O meglio, trovate molto tre cose. La prima sui trapianti di organi, più importante novità, e cioè il ministro Fazio, il ministro della Salute, ha dato il via libera alla possibilità dei cosiddetti donatori samaritani. Trovate su Repubblica anche un commento di Umberto Veronesi, su Libero. Trapianti di organi si cambia, cioè si potrà donare anche a uno sconosciuto. La vita è stata buona con me, voglio ricambiare. Parla la donna piemontese che ha deciso di donare gratuitamente un rene a chi non interessa, garantito l'anonimato. Si può vivere con un rene, io lo dono. Questa signora dice: non faccio nulla per eroismo, anzi il contrario dello spirito con cui sono partita è l'eroismo. Mi fido dei medici, se dicono che si può fare, io lo faccio e ci credo. I donatori samaritani, interessante. La segnalazione conclusiva è questa. Su tutti i giornali è riportata la dichiarazione che Elisabetta Gregoraci, la moglie di Flavio Briatore, ha rilasciato a Diva e Donna. Da quando siamo stati costretti ad abbandonare il nostro yacht, per sequestro dello yacht, il nostro piccolo Nathan Falco piange spesso e non è più tranquillo e sereno come prima. Sente la mancanza della sua cameretta tutta bianca, dei suoi spazi che lo hanno protetto fin dai primi giorni, non è tranquillo e sereno come prima, piange spesso. L'ultima della signora Briatore al bebè, manca troppo lo yacht sul giornale. Povera Gregoraci, senza lo yacht il suo bebè è depresso, questo su Libero. Gramellini, il buongiorno, i profughi dello yacht. Povero Nathan Falco, che sente la mancanza della stanzetta bianca sullo yacht sequestrato a Flavio Briatore. Ci fermiamo